tagliare le palle. No, no, quelle sono attaccate. Le facciamo per terra. Attenzione, bombolino, se ci sei, gatto. Gatto. È bellissimo, ti dico. Ancora demonio, come va? Già va bene, già va bene. Te come ti va? Ah, me mi va bene, mi va bene. Ah, aspetta un altro. Ciao, senti che devo staccare la cosa, aspetta. Da quando c'hai quell'apparecchio lì, hai detto una fragosa lì. Te lo devo dire. No, ho capito, da quando c'ho questo apparecchio qui, è tutta un'altra cosa, in che senso? La radio è molto migliore, molto più forte, segnale più forte, tutto è tutto ok. Cappa, c'è sempre la voce da donna, guarda a vedere. La voce c'è la maschera, c'è la donna, infatti la voce c'è la voce da donna. Sì, detto te l'hanno. Ah, tu stai dicendo quello del baracchino, ho capito, ti stai riferendo ieri sera. Perché sapevo che hai detto che facevi la voce della donna, adesso. Allora c'è la voce da maschio. Penso che ti funziona ancora sotto. Non penso che rispondi da sotto, no? Potrei rispondere da sotto. Ehi, ehi, ehi. Se la gelosia fosse erronea. Dai. Avanti, c'è Batte Urbana. Qui. Attenzione, Radio Baccano, se ascolti il doppio room. Attenzione, Radio Baccano, se ascolti il doppio room. No, ho sentito. No, ancora no. E avanti, Radio Baccano. Perché vabbè, ma poi si trova. Stanno parlando, per favore. Ah, mi abbassi i voti. Fanculo. Vai, a fa culo. Attenzione, non entrare così nel canale, si fa break. Avanti, Madre Urbana. Adesso ti parlo sopra, così te la insegno di educazione. Tu a me mi parli sopra, tu non parli più, te lo dico io, vi da due. Vedi, se ridi, ridi, mamma ha fatto gli gnocchi. Cos'è una minaccia? Ma non è una minaccia, non ti stanno rompendo le palle, allora vattene in un altro canale, qua c'è la gente. Anche qua voglio parlare io non ho sentito Radio Baccano. Sì, ma sei entrato come fai loro sempre, con prepotenza e cose. Se vuoi entrare, fai break e ti fanno entrare. Non sono abituato a fare break. Comunque non parlare con me, avanti Radio Baccano. Comunque non ti hanno insegnato l'educazione, per quello che non ci si abitua. Vedi, no, ce ne andiamo subito. E vabbè che sta diluviando, ciao, buonasera. Attenzione, Radio Baccano, se mi ascolti, cappa. Sì, che sei sopra, sta parlando. Cos'hai detto Radio Baccano, che piace da un lato lo più lungo? No, niente, ce ne stiamo andando da qua che c'è freddo, la temperatura è inaccettabile. Ci sono 5-6 gradi a Sassari, quindi. Comunque scusa, io non ti avevo sentito, quindi sono sporgero da Sassari. Avanti Antonella. Tu non senti mai a nessuno, nemmeno ieri sentivi a nessuno. Vabbè. Tu cos'è? Con me non ci vuoi parlare, allora perché parli? E appunto ci sono io, perché cosa sei entrato nel canale? Stavo parlando, sei venuto a rompere le balle. Vattene in un altro canale. Io ho 40 canali a disposizione, Paolo, non mi pare che mi piace, anche tu entri nel canale 10, quindi. Io sono il volto più educato e te faccio un break e tutto, non entro così sopra gli altri facendo casino sempre. Capito? Vabbè, detto questo non mi interessa parlare con te. Allora stai zitto, avanti al comando. Vabbè, non c'è nessun motivo. Comunque, visto che nessun battaglio sono qua, io entro su 10 a rompere le balle a te adesso. Va bene, vieni, vieni, intanto, per il segnale che c'hai, come balle non me ne rompi. Radio Baccano, ti ho detto che stavo andando via perché c'era neve. cane fuori stamattina, quando sono sceso anche per apportare il cane mi stavo pisciando sotto la uvoletta. Non so, so solo che ci sono voi 5 gradi, 5-6 gradi qua a segnare la carbonanza. Ricordati, 5-6 gradi qua, 500 metri, ricordati, a uso se ne saranno 2-3 come il minimo. Sicuramente, mi sposto a 10 un attimino. Se voi sono lì, sono cercando al mal, ma non ho trovato, c'è il telefono spento. Sì, sarà andato la prossima cucina, sono andata a fare un motivo ieri. Hai trovato la cucina, e quindi è per quello che è la fashion. Ciao ragazzi. Non c'è. Non c'è. Cappa, andiamo bene. Abbiamo zitto che dove pompano tutti questo microfono. Tant'è il televisore alla rete. Vabbè, questo è felice, già sta uscendo bene. Fai là, che mi sposto al 10, la mandolina ascolto, che sento male, ma che mi chiamava lì. Anda bene. Non sono lì, se vuoi passare sono lì. Va bene, a piedi, passo via allora, tanto non lo dici, se lo parlo con lui.